Yo, NG16, SLP, Nigga P the Gang, ok. C'è gente che sta chiusa tipo testuggine, c'è gente che non c'ha più sangue nelle vene, solo ruggine. Inizi con la nuova cocaina, zio, e ti rimergi poi con la cocaina, zio, e vai avanti fino alla tua essenza. Amico, senza droga non puoi stare senza. Onde radio trasmesse nella tua frequenza, sostanze che ti hanno reso una mezza ciofeca. Polvere d'angelo come fosse la tua meca, polvere d'angelo come fosse la tua meta. Amico, ti credi un superman, sui da cresci un po' come man. Amico, mule il colpo prima del bang. NG16 sui mixtape, road making tape. Aha, sono il king of the tape. Nell'era del mic rinasce NG, tutti pronti col disc. Fuck, sapete solo parlare. Iniettate nelle vene, per dimenticare le tue cazzo di pene. Pregare non servirà più a niente, non servirà più a niente, non servirà più a niente. Ormai sostanze iniettate nelle vene, per dimenticare le tue cazzo di pene. Pregare non servirà più a niente, non servirà più a niente, non servirà più a niente. Ormai è sotto questa base under che dico la mia. La droga nuoce, zio, ti porta via. Magia della polvere, va da retro. Amico, non c'è da scherzare, non si torna più indietro. Strega bianca, white witch, tu a farti insieme con la tua bitch. Ah, fetamina, cocaina, ti rovina. Fuck, mezza sega, sei solo una pedina. E lei è l'unica regina, e lei è l'unica dea che ti vuole sopprimere. E poi ti annega dalla testa in giù, nella merda fino al collo. Ma lei ti insegue tutto il mondo, non c'è via di fuga. Sarà tagliata a pezzi come la lattuga. Moglie come una medusa, e la cocca e la canuccia inclusa. Bara fiori in omaggio, ma in cambio della tua vita, amico, non ti conviene. Sostanze iniettate nelle vene, per dimenticare le tue cazzo di pene. Pregare non servirà più a niente, non servirà più a niente, non servirà più a niente. Ormai sostanze iniettate nelle vene, per dimenticare le tue cazzo di pene. Pregare non servirà più a niente, non servirà più a niente, non servirà più a niente. Ormai lacrime di sangue, scola scola, come se ti tagliassi con le lamine. Facile, recuperabile, ma mai perso le tue immagine. NG16 non lo trovi mica nelle pagine. Camminando dritto dritto con la testa nelle nuvole, e riaffiorano i pensieri, i desideri, zio, questi giorni neri. Camminando nei sentieri bui come Mary, in questo beat faccio una magia. Uff, altro che il mago Harry, non è niente confronto a me. La mia droga è solo musica, musica, musica e basta. L'unica che mi dà sollievo, amico, non farti più di ero, non ne vale la pena. La tua vita se ne andrà su e giù come un'altalena. Non restare in bilico, trova il tuo equilibrio e non cedere fra, tira dritto.